Il pasto nudo. Cibo tra realtà e immaginazione. Di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Che diavolo fai? Sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Tesoro, ma questo è un comportamento davvero paranoico, perché io sono affezionatissimo alle tue ciccette sballonzolanti. Davvero? Assolutamente sì. Dai, fammi dare una sbirciatina. Non ho mai capito perché la maggior parte dell'umanità associa il cibo alla seduzione. Più si mangia, più si ama. Forse per questo molte persone considerano il mangiare come il sommo dei piaceri. Mangiare in realtà significa deformare il proprio corpo. Al di là delle patologie legate al cibo e alla nutrizione, il mangiare tanto a me ha fatto sempre senso. Ha fatto sempre senso le persone che mi invitavano a cena, mi invitavano a pranzo, andiamo a mangiarci qualcosa. A me piace molto quel film di Louis Buñuel che mostra rovesciato completamente il cibo rispetto a alcune funzioni corporali che normalmente si consumano in totale intimità. Alcune persone sono sedute a tavola, ma sono sedute sulle tazze al gabinetto e non mangiano, conversano, non dando nessun tipo di oscenità o di pudore a quell'operazione corporale che stanno svolgendo. Invece per mangiare chiedono di potersi alzare, vanno in uno sgabuzzino come se fosse un gabinetto e mangiano mostrando la schifosità dell'abbuffarsi proprio in quell'atto. Si mangia tirando fuori il panino, tirando fuori dalle tasche qualcosa di mangiare e si mostra tutto l'aspetto puramente fisiologico del nutrirsi. Ma nutrirsi è anche una cultura, mangiare assieme significa essere conviviali e quindi ci si siede tutti a tavola, ci si riempie come otri e si entra nel campo della fantaletteratura per cui il cibo diventa qualcosa che assomiglia tanto a una sfida agli dèi. La prossima volta verrete a cena da noi, sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà, e Floranza ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Silvana De Mari, scrittrice di genere fantasy e psicoterapeuta. Siamo dannatamente grassi non perché siamo ricchi, ma perché siamo poveri. Negli ultimi 60 anni l'obesità è aumentata del 1200%. Negli ultimi 60 anni la depressione è aumentata del 1200%. Adesso, quando ci troviamo di fronte a due dati che si somiglino, non è detto che siano collegati, ma non possiamo non prendere in considerazione l'idea che sono collegati. I due dati sono assolutamente collegati. La difficoltà del piatto è stabilire il rapporto fra i sapori del vino e il punto di cottura di ogni tipo di fegato, il quale prima deve avere macerato nello stesso vino in cui verrà cucinato a metà cottura, perché la cottura definitiva si farà dentro una pasta sfoglia. Esatto. Va bene? Qua, mangia, piccolo Michel. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire. Da cos'è causata la depressione? Da un abbassamento della serotonina e dell'endorfina. Sono due spettacolari neurotrasmettitori. Da cos'è causata la boffata? Da un abbassamento della serotonina e dell'endorfina. In effetti, il grande obeso è un depresso particolarmente astuto che ha scoperto che se mangia grandi quantità soprattutto di cibi che contengono triptofano, il precursore della serotonina, come per esempio il formaggio, il cioccolato, lui sta un po' meglio. Quando noi veniamo al mondo abbiamo un'unica competenza, un pianto disperato con cui attiriamo l'attenzione di qualcuno che ci nutre. Il pulcino nasce e si trova da mangiare per conto suo, quando ha l'informazione di essere affamato, ha un'unica informazione, non ho trovato abbastanza da mangiare. Quando nel nostro cervello abbiamo un'informazione di essere affamati, abbiamo due informazioni intrecciate tra di loro, non sono stato nutrito, non sono stato amato. Posso avere da bere? Di che genere? Vediamo, di che genere? Vodka va bene? Perfetto, liscia. Pistacchi, tanti. Non mi importa più niente di niente. Che cos'altro hai lì dietro? Io voglio mangiare, voglio ingozzarmi. Ehi, grazie. Tutte le volte che noi ci sentiamo non amati, lo trasformiamo in fame. È un meccanismo di difesa da un punto di vista evoluzionistico. Se il resto della tribù non mi ama, non si sbatterà per darmi da mangiare, tanto vale che provveda da solo. Noi non ci sentiamo amati. Da che cosa nasce l'amore? L'amore nasce da due cose. Primo, se mamma e papà mi vogliono bene, in particolare mamma, almeno nel primo anno di vita, anche perché è lei che ha le mammelle e mi allatta, io produco endorfina e serotonina. Tutte le volte che mamma mi guarda, tutte le volte che mamma mi coccola, tutte le volte che mamma mi nutre, tutte le volte che mamma mi dice come sei bella figlia mia. Tu ti sei venduta l'anima il giorno che ti sei messa il primo paio di Jimmy Choo, ti ho visto. E lo sai cosa mi uccide di tutta questa storia? Perché i vestiti che ti daranno, cioè, tu non te li meriti, tu mangi carboidrati, Cristo santo, Dio. L'anoressia nasce nel 68 quando noi affidiamo la moda a degli disegnatori di moda omosessuali, i quali sono degnissime persone, per carità, e devono fare tutti i lavori del mondo meno uno, disegnare i vestiti per il corpo femminile, perché è un corpo che non amano. Quindi in più il 68 è stato contro la maternità, sono state negate le caratteristiche del corpo femminile. Nel momento in cui io propongo un modello che è sottopeso, che non ha le mestruazioni perché non ha più il abbastanza grasso corporeo, tutti cercano di adeguarsi al modello. Nel momento in cui il mio fidanzato mi fa la corte oppure un avanzamento di carriera, perdo 5 kg. Nel momento in cui scopro che mio marito mi tradisce o che sono licenziata, ne prendo 5. Questo è evidente in tutti. Me ne devo andare, è stato bello vederti. La cosa è che con te corro un grosso pericolo. Il mio cuore è relativamente inesperto, ecco, ho paura che non si riavrebbe se venissi ancora una volta messo da parte, cosa che assolutamente mi aspetto che accada. Tu mi lasceresti e io rimarrei fregato, per dirla tutta. Ma c'è un'altra entità che quando mi guarda causa la formazione di endorfine, ed è l'entità sovrannaturale. Noi siamo l'unica società dall'inizio dei tempi, non ce n'è mai stata nessun'altra, che ha rinnegato la propria religione. Forse è stata una cosa intelligente, siamo diventati più astuti, forse è stata una cosa idiota. Comunque, la religione è l'oppio dei popoli, diceva Marx. No, la religione sono le endorfine dei popoli. La religione causa la formazione di endorfine. Le endorfine sono anche la base del miracolo. Quando mi trovo a Lourdes o a Fatima, posso avere una tale scarica di endorfine che il mio sistema si riequilibra. Un popolo che non abbia il rito condiviso, che non abbia un'unica etica condivisa, che non abbia il mito condiviso, ha la serotonina e le endorfine pericolosamente basse. Quindi noi continuiamo a mangiare per riempire il terrificante vuoto che abbiamo dentro. Voglio che il Dio mi tenda la mano e scopre il suo volto nascosto, e voglio che mi parli. Il suo silenzio non ti parla? Lo chiamo e lo invoco. E se egli non risponde, io penso che non esiste. Forse è così, forse non esiste. Ma allora la vita non è che un vuoto senza fine. Nessuno può vivere sapendo di dover morire un giorno, come cadendo nel nulla, senza speranza. Molta gente non pensa né alla morte né alla vanità delle cose. Non è vero che mangiamo perché abbiamo cibo a disposizione. I re e gli imperatori avevano cibo a disposizione, e anche gli aristocratici, nessuno di loro ha mai raggiunto 120, 140, 150 kg. Noi mangiamo perché abbiamo perso la luce del Padre Eterno, certo, e anche la luce, proprio la luce del sole. Grazie all'elettricità e ai vetri delle finestre che bloccano gli ultravioletti, noi siamo pericolosamente poco esposti agli ultravioletti. Ci ustioniamo d'estate, ma siamo pericolosamente poco esposti d'inverno. Noi dobbiamo stare almeno 3 ore d'inverno esposti alla luce solare, altrimenti non si fabbrica serotonina. Uscendo dal rito condiviso abbiamo guadagnato libertà, ma abbiamo perso endorfine. E si possono conciliare la libertà e l'endorfine? Certo, che ognuno diventi il profeta di se stesso, che ognuno cerchi la strada per conto suo. Ma quella strada non smettiamo di cercarla, perché quella strada esiste e ognuno di noi può percorrerla. E se rinunciamo a cercarla, inevitabilmente troveremo la strada del frigorifero. Ricetta degenerativa e degradante. Se volete degenerare in fretta, non perdete tempo e fatevi una bella panonta almeno 3 volte al giorno. Il termine panonta già trasuda di grasso e strutto maialesco. Solo a pronunciarlo vi incrementa il colesterolo. Provate con me. Panonta. Panonta. Panonta. Ecco gli ingredienti, che potete raddoppiare se volete effetti più potenti. 200 g di pancetta fresca, 400 grammi di salsicce, 6 fette di pane casereccio, 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, sale quanto basta. Tagliate la pancetta a fettine di medio spessore e la salsiccia a pezzi. Mettete la carne in un tegame con l'olio. Cuocete a fuoco basso, girando spesso con un cucchiaio di legno, fino a che sarà una fantastica tegamata di pura sugna. Quando è cotta, toglietela dal tegame e riponetela al caldo. Friggete a fuoco vivace le fette di pane nel grasso lasciato dalla pancetta e dalle salsicce nel tegame. Mangiate con le mani, lasciando colare il grasso sulle guance e sui vestiti. Il pasto nudo. Esiste oggi una sorta di rivendicazione delle persone sovrappeso, ma è giusto, è normale che sia così. Siamo stanchi di una civilizzazione che ci vuole tutti scheletrici, che ci vuole tutti rinunciare a quelle che sono le fantastiche lussure date dal fatto che molte persone sono pime, abbondanti, hanno in sé il segno della sovrabbondanza del piacere. Questo contraddice quello che posso aver detto poco fa, ma mi piace contraddirmi, mi piace pensare che ognuno abbia il diritto di essere come meglio crede, che non esistano stereotipi, non esistano delle gradualità di lussura legate al proprio aspetto fisico. Mi piace pensare che le persone più mangiano e più sono felici, mi piace pensare che le persone possono essere felici anche senza avere la necessità di mangiare. Mi piacerebbe poter uscire con delle persone e dire usciamo, ma non per andare a mangiare, per vederci, per parlare, per fare un'infinità di cose che non si possono nemmeno dire alla radio, ma non necessariamente per dare sfogo alle nostre capacità di riempire le nostre vacuità gastriche. È un'indigestione, vero? Si potrebbe definire banalmente così, ma è anche la goccia che fa traboccare il vaso. Vostro nonno ha avuto una vitaccia e così ci è andato di mezzo il cuore. Vacca, che terremoto! Ammazza, che lavandino che sei, capannuccio mio. Però già stai un fiore, no? Ma di la verità, che te sei scofanato, eh? Antipasti misti, agnolotti, trippa, abbaglio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, liquorino, fagioli col tonno, servizio, pane coperto e vino, 7.750. E possi. Hai fatto di nuovo il giochetto? Allora, ti hanno denunciato? No, perché ho pagato. E i soldi, chi te li ha dati? Ah, i soldi? Ho trovato lo scontrino nel calzone di Peppe, non ho saputo resistere alla tentazione, ho ritirato la valigia e mi sono preso 10.000 lire. Oh, ma dove l'hai messa la valigia? Me la sono portata dietro, sta sotto al letto. Oddio, mamma mia. Ivo Germano, sociologo. Se vogliamo parlare di cibo dell'eccesso, di opulenza, bisogna secondo me in maniera preliminare tenersi lontano dalla retorica, soprattutto dalla doppia retorica del paese affamato, della fame atavica, di Arlecchino che sogna di montare montagne di polenta, di affogare nel sugo, della fame perenne del paese. E quindi bisognerebbe stare attenti e fare una questione di paradigmi. Cos'è successo? Secondo me, da quando negli anni Ottanta le pennette si fanno con la vodka e con la rucola, e da quando il cibo diventa un fattore di chiacchiera, un fattore di cui si parla, collegato al corpo ma non solo, lì si può posizionare, diciamo, l'inizio del racconto postmoderno del cibo in Italia, che secondo me, proprio perché parliamo di paradigmi, va contestualizzato in un cortocircuito fra, diciamo, la ossessione del cibo, con tutti gli annessi e connessi salutari, salutisti, eccetera, e la schizofrenia del cibo, cioè il rifiuto del cibo con tutta una serie che sappiamo di disordini alimentari e quant'altro. La prospettiva però è molto importante e parte sempre da quello che siamo, per anche parlare di quello che diventiamo. Siamo un popolo abbastanza schizofrenico, mi sembra, siamo un popolo che sta agli ordini in televisione dell'abolizione duchesca dei grandi chef, che ormai sono diventati gli arbiter eleganziarum della contemporaneità televisiva, che indicano mode dette rispettano regole e stilemi, ma siamo anche schizofrenicamente perennemente a dieta. Cioè, uniamo a modo nostro l'ossessione del corpo, quindi il salutismo di certa cultura anglo-americana che è stata importata nella famosa parola dieta, non a caso gli anni Ottanta, collegata al fitness, alla palestra, alla fatica, eccetera, con il cibo come categoria ostensiva. Il cibo è dappertutto. Vivo in una città, Bologna, che è assediata da punti enogastronomici. In quest'estate un po' lento, un po' che tarda ad arrivare, l'unica certezza è il punto che ti offre il cibo, dal kebabaro vicino alla stazione, al ristorante bio, al ristorante di classe, alla piccola trattoria, al luogo dove c'è la pericena. Si è circondati da cibo, anche se non si parla direttamente da cibo, e il cibo è diventato un instrumentum regni, una particolare metafora che spiega un rapporto contraddittorio. Ma qua mia moglie non c'entra manco de profilo. Beh, fai pigliare solo una chiappa al giorno. Come dite voi a Oxford. Pippo, sbrigati che mi si stanno a scottare i piedi. Sbrigate Pippo che gli scottano i piedini. Mettete seduta qua. Oh, e questo che è? È il disco orario, no? Ma che non ci sei mai stata al mare? Oh, ma mica sono a macchina io. No, se ne autobotti. Nel decennio degli anni Ottanta si sancisce che il ciccione, il grasso, è sfigato e soprattutto, molto da cultura protestante americana, un loser. Se sei ciccione, se sei grasso, o t'adegui, e quindi sappiamo che quando uno dimagrisce perde anche, va in trasformazione, non è solo una perdita di peso, è una perdita di equilibrio, di identità, che non è solo gratificata da taglie più comode, dalla facilità con cui ti puoi mettere una maglietta o un paio di pantaloni, si va ben al di là. Il grasso diventa o la figura comica su cui ridere, mentre al ciccione, al grasso, viene negata l'identità. Cicci, ciccio, cicciona, cia cia. Cicci, ciccio, cicciona, cia cia. Sei come la luna che splende quando è piena. Ho, ho, ho, cicciona, tu mi piaci così. C'è un filone culturale ben preciso che parte dalle signorine grandi firme alle signorine buonasera, al varietà della TV pedagogica in bianco e nero, nella televisione, nel cinema, ai nomi di Fabrizi, di Boazzelli, di Gino Bramieri, eccetera, ed è una visione bonaria, con quel termine terribile che va adesso, si direbbe curvi, dove il curvi è accettato, è bonario, era come lo vecchio zio un po' sovrappeso che però ti iniziava la vita, e c'era un'accettazione, quantomeno c'era il grasso come c'era il filiforme, c'era la fisicità meravigliosa di Walter Chiari, ma vicino aveva un Gino Bramieri, e le stesse grandi attrici adesso, se entrassero in un camerino delle grandi catene del lusso low cost, penso di Segual, Zara, eccetera, come una normale casalinga, una normale ragazzina, ne uscirebbe scioccata, perché sono specchi implacabili, sono delle ordalie visive che non permettono nessuno scampo rispetto al benché minimo difetto fisico. La Repubblica Italiana stessa era fondata su tante tipologie, tante antropologie, ma non quella del ciccione, non quella del grasso, non quella dell'impacciato. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 chili, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier. Molto carino qui, eh? E poi allegro, mi piace. È molto che avete aperto qui questa, ma come? Fame! Il ciccione o sta alle regole o decide di essere pietra di paragone o pietra dello scandalo. Qualsiasi ciccione va in spiaggia e diventa pietra di paragone, non vorrei mica essere come lui. Quindi la stigmatizzazione anche blanda, se volete anche in forme molto soffici, però il linguaggio, quando sa colpire, colpisce con dei KO, il diversamente abile e quant'altro, c'è tutta una serie, diciamo, di interventi linguistici che però non riguardano il ciccione rimane ciccione. rimane grasso. E allora non hai vergogna di te stesso? Un uomo che dice di essere intelligente e comportarsi come un povero deficiente idiota. Mi rivolgo ancora ad una metafora filmica che forse viene compresa da chi ci ascolta. Tanto è vero che in Italia è mancato uno stellone. E se fate caso, non so, a Zeli, Colorado, ai mille programmi cosiddetti comici, presenti, non c'è più un ciccione. Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che se si mette a giocare con l'Hula Hoop, la gente fa: guarda come si vede bene stasera Saturno. Pensate che adesso ha dovuto fare una dieta, è triste. Il dietologo l'ha messa a dieta, non può mangiare niente, però ha buttato giù 70 kg. A piatto il dietologo l'ha buttato dalla finestra. Perché talmente lo sfottò sociale condiviso, oltre che diffuso, che è impossibile farne una rappresentazione televisiva. Sappiamo che la televisione contemporanea funziona perché chiami qualcuno che rappresenta qualcosa, non perché se stesso, no? Ecco. E la figura del ciccione diventa irrappresentabile. Ci pensa già la società a farne un individuo fuori. Quando ti siedi in uno scompartimento ferroviario, ecco che probabilmente un ridolino salterà fuori. Non sfuggirà un sorriso per chi gira in ciabatte, con tatuaggi che spuntano dal collo, mille piercing e quant'altro, non sfuggirà un sorriso per chi si depila le ciglia, però se sei anche minimamente sovrappeso ti capita l'esecrazione, ma è capitata delle star. Quando è che le star, le celebrities vengono, diciamo, esposte al ludibrio? Quel momento in cui una foto non sarà photoshoppata, ma sarà una foto normale con alcune pieghe, alcune imperfezioni, e lì si scaglierà la canea sui social network. Verrà condiviso l'attimo della debolezza, la defiance fisica, in una società della performance, quindi una società stanca, perché condizionata dalla performance, il difetto fisico, la ciccia, il grasso, l'adipo in eccesso, sentite già come caricato il linguaggio, è imperdonabile, è esecrabile. Quindi si è ribaltata la situazione, dalla familiarità all'estraneità, dalla, diciamo, consanguineità dell'albero genealogico di qualsiasi famiglia all'espulsione, all'esilio. L'obeso vive un esilio interiore, ci può scherzare se dotato di autoironia e quindi può disattivare il meccanismo, oppure soffrirà.